Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Pronti per il soundcheck di Radio 24, buonasera a tutti voi qui dal Groovemaster Studio, buonasera da Gegè Telesforo, buonasera Francesco Tromba, immancabile. Ciao a tutti. Sei felice oggi, lo vedo, lo leggo nei tuoi occhi, ma sono felice anch'io e saranno felicissimi anche tutti i nostri radioascoltatori, perché oggi qui nel Groovemaster Studio ospitiamo due amiche bellissime e sento anche tutta la forza, tutta la potenza del loro talento che mi sta travolgendo, ecco. Eh sì, prima di tutto bravissime. Prima di tutto, no, perché sono bravissime e bellissime al tempo stesso, mio caro Tromba. Beh sì, ma noi puntiamo più sul talento. Ma questo lo dici tu, non è vero, bugiardo che non sei altro. Madame, messie, ladies and gentlemen, vado a presentarvi, non saprei da chi iniziare, ma forse inizierei da una musicista strepitosa, violoncellista, pianista, cantante, tutto quello che riesce a suonare lo suona, lo fa in studio e lo fa dal vivo, e quindi vi sto parlando della bellissima Giovanna Famolari. Benvenuta Giovanna. Grazie, buonasera, ciao a tutti. Grazie a te Giovanna, e vedo finalmente per la prima, perché tu Giovanna sei già stata qui da noi. Sì, penso, credo un paio di anni fa, sì. No? A parte che poi conosci il Groovemaster Studio perché abbiamo lavorato in vari contesti, varie registrazioni discografiche, ma per la prima volta nel Groovemaster Studio e per la prima volta al soundcheck di Radio 24, finalmente, perché abbiamo suonato la tua musica, abbiamo spesso parlato di te, Madame Messier, vado a introdurvi l'arte e il talento di Tosca, ovvero Tiziana Donati. Grazie. Ti puoi anche avvicinare? Mi avvicino di più. È un piacere. Dovevo sempre venire qui. È vero, non ce l'abbiamo, finalmente ce l'abbiamo fatta, finalmente. No? Finalmente. Ed è, sono contento. Bello anche tutto questo verde, tutta questa bella accoglienza. Non ti senti a tuo agio in mezzo agli strumenti, i dischi, spartiti, libri di musica? Ma infatti ho detto che verrò un giorno con calma a prendermi e a rubarti tutta la musica che passi, che è fantastica. Vabbè, quando vuoi puoi venire a sbirciare. Certamente noi siamo molto gelosi di tutte le nostre produzioni e di tutto il nostro materiale, però per quello riusciamo a proporre sempre delle cose nuove qui a Radio 24. Eh sì, poi dobbiamo sempre mettere in ordine, perché io faccio un po' di casino con tutti i dischi che abbiamo. Sì, la cosa è proprio così, lui è l'archivista, no? E non riesce ad archiviare nulla, perché abbiamo un movimento talmente spaventoso, un movimento nello scaffale dei dischi, dei CD e tutto il resto, però non ce la fa stare dietro. Ma sta finendo la stagione, quindi ti toccherà sostare 3-4 giorni per rimettere tutto a posto, Tromba. Beh sì, perché in archivio 2 arrivano 20 dischi, quindi è abbastanza difficile star dietro a tutto. Perché Giovanna Famolari e Tosca sono qui nel Groovemaster Studio? Certamente per chiacchierare e raccontare qualcosa qui agli amici di Radio 24, ma anche perché subito dopo il programma abbiamo delle prove da fare. Per quale motivo? Perché con Tosca ci conosciamo da tanto tempo e alcuni mesi fa ha dato vita a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, a un concerto strepitoso. E io sono felicissimo e onorato di sapere che il tutto è stato registrato e che c'è anche la mia partecipazione, oltre a quella prestigiosa di vari amici, dal maestro Piovani a Danilo Re, a Gio Barbieri e tutti gli altri che sono venuti e hanno partecipato a quel concerto, ma sono felice perché sta per essere pubblicato il disco dal vivo. Sì, questa cosa è stata inaspettata anche per noi. Io volevo in qualche maniera inaugurare questo nuovo cammino, no? Dopo Il suono della voce, il disco che tu conosci, quel disco era magico, è stato magico e ci ha aperto delle porte. Dico ci ha, perché io e Giovanna questa cosa l'abbiamo proprio concepita insieme, questo disco, questo viaggio, e ci siamo ritrovati a suonare in posti pazzeschi, cioè ci siamo ritrovati in Tunisia, ci siamo ritrovati ad Algeri, poi abbiamo fatto il Bargello di Firenze e poi Castel Sant'Angelo, che hai visto anche tu, l'estate scorsa. Alla fine abbiamo deciso proprio di inaugurare un'altra fase, fase artistica, facendo partire questo Appunti Musicali dal Mondo. E volevo fare una partenza con tutte le persone e gli amici importanti che erano stati importanti per la mia carriera. Tu, caro Gegè, non lo sai, ma io a 20 anni stavo lì e guardavo e respiravo tutto quello che tu portavi ad hoc. Grazie, tu. Ma io mi ricordo benissimo. È stato fondamentale. Mi ricordo benissimo quel periodo e tra l'altro mi ha fatto molto piacere vedere su una delle tue pagine Facebook che hai ritrovato un vecchio filmato di Doc, una partecipazione. Sembrava una Tina Turner andata male. Sì, non ricordo bene. Che cosa successe allora? Mi pare che c'era Tanita Tikaram che si rifiutò di cantare perché il pubblico applaudiva. C'era Twist in My Sobriety. Mm. Lei non gradiva che il pubblico battesse le mani lì, insomma c'erano tutti i ragazzi e se ne andò, mise la chitarra e lei andò via, noi eravamo tutti lì seduti ad aspettare e invece lei se n'era proprio andata, sì, non è che era andata anche allora tu non eri ancora Tosca, no, eri Tiziana Donati, Tiziana una bravissima Donati. Cantante in giro con voi, giovane, e in quel periodo eri impegnata nella band del nostro amico Stefano Palatresi. Fatto sta che praticamente rimase un grosso buco da coprire in trasmissione e io proposi a Ugo Porcelli e a Renzo, ma facciamo cantare Tiziana che è bravissima, e credo che forse quella è stata la tua battesimo. Prima esibizione sono in morta TV. In quel momento io proprio credo che il cuore si fermò. Questo me lo devo, è un'altra tacca sul mio pugnale, capito, Tromba? Sì, è un trofeo per è un trofeo anche questo. Allora io direi di andare alla musica. Tu parlavi del Suono della Voce, disco che noi abbiamo molto amato e che abbiamo anche suonato qui a Radio 24, ma direi di ascoltare forse uno dei brani portanti di questa produzione distribuita da Sony Classical. Il brano è splendido e si intitola Via Etnea, e qui c'è il talento di Tosca. E sorridendo va. Via Etnea, brano splendido che troverete nel Suono della Voce di Tosca, nostra ospite insieme a Giovanna Famulari. Io sono rimasto a bocca aperta la prima volta che ho visto il vostro concerto, proprio per il fatto che spaziate da un paese all'altro. È veramente un giro che fate fare al vostro pubblico e ai vostri beniamini in giro per il mondo. E il fatto, Tosca, che tu canti in italiano, in napoletano, in romanesco, in rumeno, in cinese, inglese, portoghese, spagnolo, è sorprendente. Come fai? Mi diverto, ecco, mi diverto. Hai capito? Si diverte. Sì, guarda, è la curiosità, è il mio voler appunto mangiarmi la musica. È una cosa. Beh, che certo, te la mangi la musica, ma la devi pure studiare, però. Sì, vabbè, ma quello è il nostro mestiere. Il nostro mestiere. Io la musica mi deve arricchire. Ogni giorno devo. Oggi sto qui da te e già mi sono segnata 3 artisti che non conosco, che vado subito a conoscere. Mi piace troppo essere arricchita dal mondo musicale, quindi questa curiosità devo dire mi viene più dal teatro, avendo affrontato tante prospettive diverse, musica yiddish, musica napoletana, musica romana, il sud del mondo, il rebetico. E poi alla fine questo concerto l'abbiamo pensato con Giovanna, abbiamo pensato un po' di fare un sunto di tutte le cose che avevamo conosciuto anche insieme, quindi è venuto fuori questo viaggio attraverso la musica con una sonorità nostra, cioè non andare a scimmiottare, ma con 3-4 una vostra strumenti. Identità. Sì, basta trovare un suono e non andare a campionare, ma magari ricreare quel suono attraverso il cello, la chitarra o il contrabbasso, insomma, però quello è un Senti, po' e ogni tanto in tutto questo girovagare musicalmente parlando torni ad ascoltare il tuo vecchio amore, Aretha Franklin? Sì. Beh, allora ti faccio un regalo. Primo vai. Amore, primo amore. Vai con Aretha Franklin, Tromba. Soundcheck, il suono della musica. Beh, questa è veramente originale, la versione swing di Prison Colin Ensignal Chusel, il vecchio successo di Adriano Celentano che fece scalpore allora perché praticamente cantava in finto inglese. La cosa che invece è scioccante è che Tosca e Giovanna Famulari hanno tirato giù perfettamente tutte le sillabe, il testo che secondo me era stato in qualche modo improvvisato da Adriano Celentano, l'avete tirato giù perfettamente come se fosse una vera e propria lingua e lo lo proponete anche dal vivo. Non solo, ma siete state cattivissime con me, perché quando avete fatto il concerto all'Auditorium Parco della Musica mi avete chiesto di cimentarmi in questo brano. Fortunatamente io me la cavo con l'improvvisazione e quindi non ho imparato il testo a memoria, ma ci ho messo del mio, tromba. E anche con le sillabe te la cavi, no? Sì, è l'unica cosa che so fare, forse. No, è stato... Devo dirti che questa scelta è stata particolare, perché io nel suono della voce, nel disco, volevo mettere anche il grammelò. Volevo mettere il nonsense, cioè dire una cosa ma non dicendo nulla. Quindi la prima idea era stata, ti ricordi Gio, era stata la Titin, che era questo grammelò di Chaplin, dove lui non diceva assolutamente niente. E poi una sera invece, sai il programma Te che te? Sì. Ero lì un po', non mi convinceva tanto questa idea. È apparso Celentano con Plisincoli, ho detto eccola, ecco il nostro grammelò. E quindi ne ho parlato con Giovanna. Io ricordo che nel gruppo c'è anche Massimo De Lorenzi, che è importantissimo in questo trio di matti. Musicista eccezionale. Che tra l'altro è quello che la prima cosa che ti dice è no. Ecco. Allora arriviamo io e Giovanna così, che facciamo con gomitino e facciamo, glielo dici tu, no, non glielo dico. Allora mando avanti lei, dice si potrebbe fare questo, e lui no, dice no. E poi è il primo che invece ti trova la soluzione. E quindi abbiamo cominciato a sperimentare, e lei ad un certo punto ha detto ma perché non la facciamo... io avevo in mente, mi ricordava molto un pezzo che c'era nel film Il colore viola. C'è un pezzo fatto con tre voci, quel brano lì. E in più con Traffic Jam di aiuto, sozzo, anziana. Vabbè, vai avanti, non ti preoccupare. Vai. E quindi da lì siamo partiti ed è nata questa follia. Questa versione swing di Plisincoli e Nancy Nolciu. Senti Giovanna, tu la cosa che mi colpisce sempre è che tu hai fatto un percorso accademico di quelli proprio rigidi. Sì. No? È vero? Quindi piano... Sì. Pianoforte, violoncello. Sì, sì. Poi a un certo punto che cosa è successo? Perché un po' quel mondo, non voglio dire che l'hai abbandonato completamente, però ti diverti molto a collaborare con songwriter, cantanti, musicisti di varia natura, dal jazz allo sperimentale. La penso esattamente come Tosca, nel senso che il background è classico, anche perché comunque il mio strumento è uno strumento classico e si studia al conservatorio. Ho avuto la fortuna di avere degli insegnanti eccezionali, perché che se ne dica, insomma, sulla chiusura mentale del conservatorio io ho avuto insegnanti che mi hanno fatto amare il solfeggio. Io non vedevo l'ora di andare a solfeggiare, e tu che mi conosci sai che io non sono una che si tiene ferma facilmente. Quindi avendo appreso, diciamo, la tecnica dello strumento, ho sempre avuto comunque insegnanti che mi hanno aperto ad altre vedute. Io mi ricordo che quando è uscito Pino Daniele abbiamo ascoltato in classe il disco di Pino Daniele, cosa che non so se oggi c'è ancora questa apertura. Comunque già all'epoca c'era una tendenza, diciamo, ad aprirsi. Detto questo, la fortuna sono stati gli incontri, e Tosca è uno di quegli incontri fondamentali nella mia vita, perché mi ha fatto veramente scoprire autori, scoprire stili, mettermi in discussione e avere il coraggio di fare delle cose, perché io la prima volta che l'ho incontrata... Non voleva suonare il pianoforte lei non voleva suonare il pianoforte, era eppure stata una guerra. Lo suoni benissimo, Giovanna. No, io sono diplomata ma non lo suono. Vabbè, prova a suonare. No. Alla fine una sera ho detto, devi, ci sei solo tu. No, ma infatti è bellissimo vedere Giovanna sul palco, che ha il pianoforte, con la mano sinistra suona il pianoforte, con l'altra suona il glockenspiel, poi quando... Esigenze. Quando suona il violoncello... No, è bello anche che suona il violoncello e armonizza le tue melodie, quello è incredibile, perché ci vuole proprio indipendenza, oltre al fatto di avere esperienza e padronanza del mezzo e della musica. Intanto grazie anche Prego. A te, per aver notato, insomma, delle cose. Beh, ma comunque scusa. Devo dire io... No, vabbè, comunque devo dire veramente grazie alle opportunità che ho avuto. Io ho avuto questo incontro importante con Ron, che mi ha permesso di capire un certo tipo di musica, un grande incontro con Gege Telesforo, che mi ha permesso di conoscere, approfondire un altro genere che non mi apparteneva. E incontri come quello con Tosca, che mi ha messo di fronte anche alla possibilità di fare la produttrice artistica di un disco, che era la prima volta nella mia vita, nel panico, mi sono trovata nel panico e dico: ma come si fa a fare la produzione di un disco? Poi la possibilità... anche per me era la prima volta. Quindi alla fine ci facevamo una matta. Ci facevamo forza a vicenda, sì, perché su delle cose proprio facciamo qua che facciamo? E poi invece la soluzione viene. Il trucco è giocare, non prendersi troppo sul serio, no? Perché io vedo molti miei colleghi che stanno lì e sembra che stanno facendo un'operazione a cuore aperto. Invece la musica è qualcosa di, insomma, che ti deve far star bene, non ti deve fare stare lì con la scienza infusa. La pensiamo nello stesso modo, dai, va fatta seriamente, comunque, ma con il sorriso sempre. Mi vedevi con la faccia che pensavo James Taylor, perché voglio dire, prima ho detto Traffic Jam, è possibile che non mi ricordo. È venuto James Taylor? No. Cioè, è tornato a galla? No, nella mia mente, pezzo di prima. Perché scusami. Adesso ti senti meglio? Ora mi sento meglio. Va bene, è appagata. Allora, da John Mayer invece vi porto da James Taylor a John Mayer. Vado a John Mayer. Il brano dall'ultimo album si intitola Moving On e Getting Over. Vi piace? Yes. Anche fisicamente, grande, eh? Sì, certo. Ma mi piace sempre anche tu, eh? Ah, è questa! Aiuto! Andiamo, trompa, andiamo! Soundcheck. Il suono della musica. Questo incanto resterà. Ma quanto sei brava! Ma uno veramente si innamora quando ascolta una canzone. Intanto, vabbè, la composizione già ci mette del suo perché è bellissima. Ti guarderò nel cuore, una vecchia composizione di Rizzo Ortolani, tra l'altro utilizzata anche come brano di una colonna sonora di un film tanti anni fa, giusto? Tosca? Era un film terribile. Qual era? Mondo Cane. Era un documentario. Io amavo questa canzone e poi quando l'ho associato a questo film. Perché veramente c'erano tutte le crudeltà del mondo, dalle lotte dei galli, ricordo. Cani alcune cose erano finte però, e ricordo anche questo, perché questo non lo sapevo. Va bene, comunque Tosca e Giovanna Famulari sono qui con noi nel Groovemaster Studio per parlare di musica, per parlare di arte, per parlare di bellezza, in modo particolare la loro. Io volevo dire una cosa a Francesco, che meraviglia avere il cognome che con il nome di uno strumento. Pensa, Giovanna violoncello, tipo. Giovanna, tu immagini invece Giovanna tromba. No, non è carino. Dai, ci facevano subito. Ma tua sorella ha avuto dei problemi, mi sa. Sì. Come si chiama tua sorella? Valentina. Ah sì? E a scuola? Sì, diciamo che era sempre un problema quando partiva l'appello. Me l'immagino. Allora, va bene, Tosca e Giovanna Famulari sono sempre in azione, sempre pronte con la valigia. Come vivete questa vostra condizione di viaggiatrici musicali? Ma non solo pronte con la valigia, noi siamo sempre pronte in prova, perché siamo sempre in eterno movimento e quindi mille cose da fare. Poi col fatto che ricerchiamo e facciamo delle cose particolari, allora quando ci chiamano vogliono sempre la cosa più particolare, capito? Allora, che ne so, dobbiamo fare la sigla per... E non è che possiamo fare una sigla normale, no, la dovete rivisitare in una maniera folle, quindi io e lei stiamo continuamente a studiare e a divertirci, a trovare soluzioni, quindi è un viaggio nel viaggio. Giovanna, quanto tempo dedichi allo studio? Oggi proprio hai oggi? Tempo, riesci ad avere cerco tempo di studiare sempre, anche poco, anche un quarto d'ora, mezz'ora, 10 minuti, o comunque le mani sullo strumento le devo mettere. Anche perché poi tutto quello che perdi lo devi riacquistare facendo 10 volte tanto. Vivendo di musica e suonando e facendo concerti devo tenermi in allenamento. È come fare palestra. È vero. E questo è quello che dico anche ai più giovani, lo dico sempre, non è che uno deve stare lì sulla musica e sugli strumenti 8-9 ore al giorno. Però tutti i giorni, non c'è domenica, non c'è Natale, c'è vacanza per chi fa il musicista, o comunque bisogna avere un rapporto quotidiano con la musica. Il cervello deve restare sempre in allenamento. Sì, anche con l'ascolto, cioè mantenersi sempre dentro. Infatti io non vado d'accordo con i doppiolavoristi. Sono molto in conflitto, cioè non credo di quelli che fanno musica, cioè, però lavoro in banca tutto il giorno, poi la sera vado a suonare. Sì, può essere uno sfogo. Vabbè, però se lo fanno per hobby, dai. Per hobby posso accettarlo, anzi è una cosa bella. Quindi tu ce l'hai con i professionisti della musica, sì, che hanno un altro lavoro. Sì, perché bisogna viverla 24 ore su 24, non so, io la vedo così. Per penando, me la musica è vita. Non... Penando anche se non riesci a pagare le bollette. Sì. Questa è la vita del musicista, hai capito, tromba, come stanno le cose? Sì, bisogna comunque soffrire. Bravo, e tu devi soffrire. E io invece voglio soffrire perché continuo a non avere feedback da parte di Becca Stevens, alla quale continuo a inviare messaggi, però niente. Perché questa gelosa, donna? Eh? Perché questa donna, Giovanna, dopo io e te dobbiamo parlare, guarda. Allora, perché questa donna Becca Stevens mi tratta così? Per farti soffrire, per poi farmi soffrire. Usa il bastone in questo momento. Ancora comunque non usa io le voglio un gran bene e poi questo disco è strepitoso. Adesso ci parlo io, dai. Con Becca? Sì, dai Becca, su, rispondi. Va bene, vi lasciamo con Becca Stevens, Regina, album splendido, ultima produzione per lei. Facciamo una pausa perché arriva anche l'informazione di Radio 24, poi torniamo qui dal Groovemaster Studio con Giovanna Famulari e Tosca. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Prontissimi per la seconda parte del soundcheck di Radio 24, qui dal Groovemaster Studio con Tosca e Giovanna Famulari e naturalmente Francesco Tromba, che un po' di tempo fa è andato a curiosare lì all'Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini a Roma, che è una bellissima iniziativa guidata poi dalla nostra Tosca. Cioè di cosa stiamo parlando, Francesco? È un laboratorio di alta formazione in diverse discipline artistiche, ovvero nella canzone, nel teatro e anche nella parte multimediale. La novità, diciamo, di quest'anno rispetto agli anni passati è che si è aperta al pubblico, nel senso si sono organizzati tanti incontri diretti a creare anche un pubblico vero e proprio, a discutere criticamente dell'arte. Sì, io aggiungo che siamo noi vittime di un caso di buona politica, perché questo è fatto attraverso la Regione Lazio con il Fondo Sociale Europeo. E quindi la scuola, il laboratorio è completamente gratuito, è aperto a tutta l'Italia. Quindi, insomma, quando ci sono delle cose buone bisogna sottolinearle. È un posto, io lo chiamo centro di accoglienza per giovani artisti, nel senso che, come sai, appunto c'è un'invasione di tutta la parte più mediatica e commerciale dei nostri mestieri, che può essere fare il cantante, il produttore o l'attore, il regista, il videomaker. C'è appunto un abbrutimento e quindi questo è un luogo, un po' un'isola felice, dove ci si può permettere di approfondire e capire chi si è, per poi diventare produttori di se stessi, quindi in questa maniera diventare degli artisti liberi, giovani artisti liberi, e quindi nuove voci, nuovi attori, nuovi cantautori, insomma nuova linfa. Mi spieghi, puoi spiegare agli amici di Radio 24 come funziona? Nel caso, dunque, no, c'è per un... i ragazzi, sì, come devono fare per partecipare? Il prossimo bando sarà nel quindi autunno. Non è una cosa che riguarda soltanto i residenti a Roma e nel Lazio, no. È una cosa aperta. È una cosa aperta non solo all'Italia, ma possono venire anche gli stranieri con regolare permesso di soggiorno. E come funziona? Iniziano i corsi quando? C'è un bando pubblico, e c'è una selezione fatta da una commissione DOC. E vengono scelti questi 75 in tutto, sono 25 a sezione, cioè sezione canzone che dirigo io, sezione teatro Massimo Venturiello, sezione multimediale Simona Banchi, fino a giugno, poi si vedrà se rimarremo noi. E questi ragazzi entrano e per 2 anni praticamente vivono insieme di musica, di teatro o di multimediale. Quindi i tutor, cioè i professori, sono tutte persone che fanno questo mestiere, quindi praticamente è come creare un avviamento al lavoro. Per dirti, io che adesso inizierò una serie di concerti, ho preso 2 ragazze dell'Officina a lavorare con me. Nel teatro molti ragazzi stanno lavorando con Emilio Solfrizzi, con Armando Pugliese, con Veronica Cruciani, con lo stesso Massimo Venturiello, quindi c'è una grande opportunità di lavoro. Alcuni ragazzi hanno partecipato con delle web serie a alcuni premi importanti. Alcuni hanno vinto un Davide Donatello per l'organizzazione di un film, un corto. Quindi c'è proprio una messa in strada delle persone che vengono a studiare lì. Quindi è una cosa, se vuoi, nuovissima in Italia. È un vero e proprio corso di formazione per artisti. Rispetto ai talent, lì sì, ti costruisci realmente come artista, no? Sì, è proprio una costruzione artigianale. Ecco, noi siamo un po' degli artigiani di questo mestiere, no? E quindi non pensare all'obiettivo, non pensare a che cosa vuoi raggiungere, ma pensare effettivamente a scoprire che artista sei e che cosa puoi fare, come puoi organizzarti con la tua squadra, cioè quindi trovare il tuo manager, il tuo arrangiatore, il tuo produttore, chi ti cura i video, chi ti cura il social piuttosto che il sito. È importantissimo oggi essere consci di quello che uno è e non aspettare che venga la manna dal cielo, uno che ti prende e ti fa diventare altro per poi diventare, che ne so. Per me, ecco, la definizione più giusta del talent è che uno ha la sensazione di essere lui il protagonista, ma in realtà sei la lampadina per far brillare un'insegna, e questo è molto importante. Fra i docenti è mai venuto per una masterclass Joe Barbieri? Joe Barbieri insegna. Insegna proprio? Insegna. È proprio uno dei docenti, come Niccolò Fabi, come Piero Fabrizi, Pietro Cantarelli. La Famulari c'è? La Famulari è tutor d'aula. Ah, mi devo iscrivere allora. È tutor d'aula e per bacchetta di brutto. Frequentarla di più mi devo iscrivere. Sono cattivissima. Devi stare attenta perché è cattivissima. Madonna, non vedo l'ora di essere bacchettato da te. Allora, dicevo Joe Barbieri perché hai cantato una canzone che è inserita anche in questo album, Il suono della voce. Il brano si intitola Cicale e Chimera. Soundcheck, il suono della musica. Il sound assolutamente solare della California per la voce di Ashley Smith in Best Friends dall'album Sun Kissed. Qua si sente proprio il sound tipico californiano, un disco a cavallo fra la fusion di un tempo, il Brasile, la bossa nova e naturalmente anche il jazz contemporaneo. Questo è il sound, il suono di questo sabato qui al Soundcheck di Radio 24 con Giovanna Famulari e Tosca con noi. Giovanna Famulari, docente anche lei alla Officina Pasolini, cattivissima. Perché cattivissima, Giovanna? No, adesso stavo scherzando. Diciamo che io collaboro con gli insegnanti e li seguo, diciamo, come tutor, come collaboratrice, i ragazzi. Però io vengo da un'accademia dove il mio insegnante di violoncello mi dava l'archetto sulle dita quando stonavo o quando suonavo male. Quindi sono venuta vendicare. Su. Esatto. No, deve passare, no, tutto. Sono tutti adulti, tutti bravissimi, tra l'altro, i ragazzi di Officina. Però diciamo che a volte bisogna essere anche rigorosi e duri. È vero che gli stranieri dicono play per definire, diciamo, la musica, no? Come giocare. Però bisogna anche a volte essere rigidi su alcune cose, perché insegnare è una cosa, suonare insieme è un'altra. Quindi io comunque ho il compito anche di spiegare delle cose, di fargli scrivere, di fargli leggere, di approfondire alcune cose. Quindi, l'estate questa. Scorsa con Francesco eravamo in giro per l'Italia per filmare e produrre alcune puntate di un programma che poi è andato in onda, devo dire, anche con soddisfazione e successo su Rai 5, chiamato Variazioni su tema. Ci trovammo lì a Castel Sant'Angelo, dove c'era il concerto di Tosca, e in quell'occasione la puntata, l'argomento che noi trattavamo era perché i musicisti odiano i cantanti, e naturalmente feci questa domanda a Giovanna Famulari, che mi hai fatto odiare da mezza Italia. si è fatta odiare per la risposta, però ha dato delle risposte giuste. Perché i musicisti odiano i cantanti? Beh, non tutti, eh. Intanto no, qua no, hai, no. Ecco, sei allora, in compagnia di Tosca e anch'io esatto. Ogni tanto, insomma, un po'... No, la mia premessa è stata, ovviamente, escludendo tutti coloro con i quali io lavoro... Certo, certo. Ho detto che per alcune categorie, non tutte... E non per tutti, ovviamente, perché non posso generalizzare, però diciamo che il cantante un po' è pigro, quindi molti non studiano. Puoi anche dire ignorante, che ci sta. No, vabbè, non voglio essere. Però è più una cosa di anni fa, dai, adesso ci sono le scuole, ci sono i corsi, vedo che i cantanti no, che si iscrivono ai conservatori, vanno nei dipartimenti di jazz, sono interessati più alla musica che al canto. Dai. Sì, assolutamente. Poi... Però, come hai detto bene te, tu insegni una cosa che è come staccare il tempo, che è fondamentale. Questa cosa ancora forse oggi su come stacca il tempo un cantante, no? Ecco, non lo stacca bene. No, allora. No, si può anche, c'è una frase, ma non si può dire in radio. Come, non si può dire. Si stacca il tempo, no? Allora, Andrea, la musica, questo signore invece la musica, cioè il tempo lo stacca benissimo perché è un campione di musica, Kurt Rosenwinkel, chitarrista eccellente, album nuovo intitolato Caipi. Anche lui si è lasciato coinvolgere dal suono brasiliano. Pensate che ci ha messo 10 anni a realizzare, a ultimare questo album, perché era sempre in tournée, quindi girava con il suo computer e registrava lì dove si trovava. Il brano è splendido, si intitola Summer Song, Kurt Rosenwinkel al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. La stessa musica. Che bella composizione, Il Porto, a mesma musica che troverete nel suono della voce di Tosca, brano scritto dal contrabbassista Ermanno Dodaro, che collabora con te ormai da diverso tempo, Massimo Venturiello, e poi c'è questa Maria de Fátima Vaz Carneiro Anadon. Anadon, che è una cantante... Da dove viene questa donna? È di portoghese. Lisbona, portoghese. Mm. Sì, io sono andata a Lisbona per un po' di tempo, e stavo pensando al disco nuovo e quindi mi facevo queste belle passeggiate sul Lungo Tago, mi piace fare Lungo Tevere, Lungo Tago, e ascoltavo questa canzone. Ad un certo punto, sai quando senti l'esigenza di trasformarla, e quindi ho detto la voglio fare in portoghese. Conoscevo questa cantante, che tra l'altro è la compagna di un musicista italiano, di David Zaccaria, e gli ho chiesto di adattarla, e lei ha fatto esattamente quello che diceva il testo in italiano, cioè la comunione di quando tu vai ad approcciare ad un'altra musica, tu cerchi la tua radice in quella musica lì, per intrecciarla come fanno gli alberi, sotto e sopra, no? si uniscono, e abbiamo raccontato questo, di quanto c'è una matrice comune tra la Lisbona, Tunisi, Napoli, Istanbul, ci sono delle assonanze pazzesche. Questo è quello che racconta, un po' anche simbolo di integrazione sociale, anche quello volevamo raccontare. Ecco, una delle cose che mi piace del vostro spettacolo è proprio il fatto che tu racconti le storie, le tue canzoni sono delle storie, ma poi tu racconti la canzone, e questa è una cosa che piace molto al pubblico e piace anche molto a me quando vado a vedere un concerto e uno spettacolo. È un concerto dove viene fuori il talento dei musicisti, un concerto dove il suono sta a cavallo fra la musica classica, il folklore nel senso buono del termine, musica world popolare. Music, ci sono dei momenti di grande coinvolgimento ritmico, e poi è un concerto molto romantico. Io mi sono emozionato più volte quando sono venuto a vedere il tuo spettacolo, prima a Castel Sant'Angelo l'estate scorsa e poi all'ultimo che hai fatto all'Auditorium Parco della Musica, e adesso sono contento perché mi hai coinvolto in questa avventura e faremo questo concerto a Reggio Calabria. Ma non finisce là, quello è solo l'inizio. Bene, sono contento. A parte che non c'è due senza tre, quindi ce n'è. Così finalmente posso andare in tournée anche con Giovanna Famulari. Ecco, è solo quello il suo obiettivo. nella vita e nella musica ci vogliono degli stimoli forti. Se io no? vado da Gegè e gli dico facciamo una tournée di Stor ritornelli. Lui dice: c'è Giovanna, sì, allora va bene. Ci vengo, perché no? Ci sono sempre cose che uno deve imparare. 5. Perché no? Tra l'altro, anche va bene. Poi vi faccio sentire, faccio una cosa. Tromba, tira fuori il disco e voglio far sentire il violoncello di Giovanna Famulari. Intanto facciamo ascoltiamo Carmen Sosa. Quanto mi piace questa versione di U pane ghigno da Criology, Carmen Sosa. Soundcheck, il suono della musica. Ma che cosa si può dire di più? Il suono della voce in versione violoncello solo, suonato da Giovanna Famulari. Che cosa posso dire di questa donna che oggi è qui di fronte a me con il suo sorriso, i suoi occhialoni e il suo violoncello buttato lì che non si sa. Te lo porti sempre dietro come bene. Una copertina di Linus. Sì, è la mia casetta tipo chiocciolina. Mm. Vabbè, è il mio compagno, è il mio miglior amico, è il mio fidanzato, è il mio figlio. Il insomma, tuo ha tanti violoncello. Ruoli. Sì, il mio violoncello. E lo vediamo in aeroporto sempre, da quanto lo ama. Litigo sempre con tutti. Vabbè, comunque, no, ti volevo raccontare un piccolo aneddoto velocissimo. Questa parte di violoncello che avete mandato, in realtà io l'ho improvvisata, ma veramente improvvisata a casa, perché noi prima di andare a registrare in studio abbiamo registrato tutto a casa, con invenzioni nate sul momento che poi abbiamo tenuto, pensa. Alcuni take, tipo Buona la prima, la Sony li ha preferiti a quelli fatti in studio con tutti i suoni elaborati, eccetera, tipo questo che io ho letteralmente improvvisato al momento e che però aveva un'emotività che poi quello in studio fatto con la parte davanti non aveva. Quindi se c'è qualche piccola stonatura o qualcosa l'abbiamo tenuta volutamente. Ma io ci sento solo bellezza e verità. No, è bellissimo. No, era lei bellissimo. Che lei no, vabbè, ma lei non è, dire, non è mai contenta. No, è stonato, è stonicchiato. Non è mai contenta come tutti i bravi musicisti. Io lo so perché l'ho coinvolta anche nella produzione di Fun Slow Ride, dove hai una parte importante proprio in Next con Alan Hampton. Anzi, adesso vorrei suonarlo proprio per omaggiarti e chiudere così il nostro appuntamento. Intanto però, un'ultima cosa, so che avete realizzato un documentario. Noi stiamo per realizzare un documentario. Siamo andati appunto sia ad Algeri che a Tunisi, abbiamo partecipato a questi Festival Jazz Award. E ti dico, a Tunisi io non volevo uscire, lei si nascondeva dietro di me perché avevamo di fronte 3.000 persone, che non è che erano gli italiani a Tunisi, erano proprio tunisini. I tunisini a Tunisi. Ecco, no, nel senso che sai, di solito gli italiani vanno a fare i concerti per gli emigranti, invece no, noi stavamo proprio... E lì abbiamo incontrato degli artisti residenti, Lotfi Busniak e Salim Dada, li abbiamo intervistati, abbiamo suonato con loro, da lì è nata l'idea di questo documentario con Rai Cinema, con la Farnesina e con tante altre strutture che stanno abbracciando il progetto. Andremo a Rio, a San Paolo, a Lisbona, a Parigi, a Berlino, a Tel Aviv e a Beirut. Io... Vieni con noi, dai. Ma c'è, Giovanna c'è? Giovanna c'è per forza. Allora vengo pure io. Va bene, grazie a Toschi, a Giovanna Famulari, grazie a Francesco Tromba. Tu avevi ancora tante cose da chiedere a queste due donne meravigliose, no? Sì, le chiederò a microfoni spenti. Ecco, bravo. Vi lascio con Fun Slow Ride, Next, la voce di Alan Hampton e Madame et Messieurs, Ladies and Gentlemen, signore e signori, al violoncello, ai violoncelli, no? Perché qui la parte si era complicata, no? Abbiamo che bello fatto questo progetto, grazie. Una sezione di violoncelli. Grande cosa, bravo Gigè, veramente. Per Sounds for Children, Giovanna Famulari, grazie a voi ragazzi, grazie. Grazie, vi voglio a te, bene. Gigi, è un piacere. Grazie. Noi ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 24, per il Soundcheck a partire dalle 19:15. Buona serata a tutti voi.